La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci qua, amici, alla nostra mezz'ora di cinema settimanale qui su Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisi, questa è La Rosa Purpurea. Andiamo subito a dare un'occhiata a quelle che sono le proposte sul grande schermo di questo fine settimana. 8 nuovi film a vario titolo distribuiti sul nostro territorio, chi più, chi meno, chi molto meno, però qualche scelta l'abbiamo fatta. Non è una settimana, diciamo, epocale per quanto riguarda il cinema, penso che non cambierà di molto la vetta delle classifiche, ma qualcosa di interessante si muove, e comincerei proprio con quello che a mio modo di vedere è il film sul quale c'è più da discutere in un certo senso per quanto concerne questa settimana, ovvero Snowpiercer di Bong Joon-ho, regista coreano che ha alle spalle parecchi successi di critica e anche di pubblico nel suo paese, in Italia conosciuto soprattutto per un'opera come Mother, che ebbe grande eco nei festival internazionali. Regista sicuramente visionario, sicuramente inquieto, alle prese, possiamo dire, col suo primo film occidentale. Lo è nella fattura, lo è nella fotografia, è stato girato a Praga ma con troupe internazionale, lo è molto negli attori, da Chris Evans protagonista a Tilda Swinton, a John Hart, a Ed Harris, per raccontare una storia molto metaforica, anche piuttosto fantascientifica, di un mondo del futuro prossimo, 2031, nel quale l'unico drappello di umanità ancora viva su un pianeta completamente ghiacciato, perché l'abbiamo più o meno mandato in malora come in altri film, sta su un treno perennemente in corsa, in circolo, su un percorso circolare che non deve fermarsi mai, perché se si ferma è perduto ed è perduta tutta la razza umana. Un treno sul quale però si ripercorrono gli schemi che sono stati gli schemi della nostra vita, della nostra organizzazione occidentale degli ultimi 150 anni, ovvero c'è chi sta molto bene, c'è chi sta molto male, le carrozze di testa, le carrozze di coda, un excursus assolutamente metaforico di un sistema, quello capitalista, nel quale le cose sono state impostate in questo modo. È chiaramente una battaglia per l'emancipazione che si svolgerà all'interno del treno senza mai fermarlo. In principio, l'ordine è stato stabilito dal vostro biglietto. Prima classe, economy e poi parassiti come voi. È stata la sacra locomotiva a stabilire l'eterno ordine. Tutto fluisce attraverso la sacra locomotiva. Ogni cosa trova il suo posto, ogni passeggero ha la sua sezione. L'acqua che scorre o il calore che riscalda rendono omaggio alla sacra locomotiva. Tutto occupa una sua particolare posizione prestabilita. Questa è la realtà. Il discorso di una cattivissima e bruttissima Tilda Swinton ai peones, quelli che stanno in fondo al treno, ma che a un certo punto si ribelleranno anche perché stanchi di mangiare sempre una sorta di gelatina fatta del ricavato di insetti allevati appositamente sul treno, insomma qualcosa di abbastanza schifoso. Boris Sollazzo, che invece non lo è affatto, è in collegamento con noi. Ciao Boris, tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Allora, questo Snowpiercer, per me il segno che un regista come il nostro amico coreano Bong Joon-ho sa uscire dal cinema d'autore, però senza staccarsene, tenendone la matrice e applicandola a uno spettacolo di grande livello visivo. Ricordiamo un film che è costato 34 milioni e mezzo, che ne fa il film più ad alto budget diretto da un regista coreano. E siccome lui, che sugli effetti speciali ci sa fare, lo sappiamo già, li applica molto bene anche stavolta, mi sembra che il risultato anche estetico sia di grande godibilità. Altro che, è davvero interessante questo film. Io non vorrei esagerare, ma in qualche modo potrebbe essere, per un certo cinema di fantascienza distopico, quello che in Occidente è stato Blade Runner tanti anni fa. Mi rendo conto che il paragone è molto alto e molto difficile da sostenere, però è molto interessante come in un genere in cui è difficile inventarsi qualcosa, perché ormai tutti hanno a disposizione ogni tipo di tecnologia per poter costruire un immaginario, qui c'è un regista orientale che riesce non solo nelle facce ma anche nella narrazione a unire il meglio dell'Oriente e il meglio dell'Occidente con una storia che davvero forse non è originale nella struttura, ma lo è nell'immaginario, nella scenografia, nella fotografia, e in questo treno che non si ferma mai, che rappresenta davvero quel capitalismo che va a testa bassa, che non guarda in faccia a niente a nessuno, e che è diviso in classi come il Titanic di De Gregori. Molto interessante l'aspetto metaforico, che non appesantisce il film, ma anzi lo alleggerisce, alla capacità insomma di non essere invadente. Molto interessante la recitazione degli attori occidentali, Jamie Bell, Ed Harris, tutti quelli che hai considerato tu, anche se Tilda Swinton ovviamente fa la parte della leonessa, di una straordinaria leonessa, credo che le rimarrà appiccicata a lungo questo personaggio molto particolare, e gli attori orientali. Ecco, c'è secondo me un nuovo modo di narrare che nasce proprio dal fatto che qui si sono incontrati due mondi, e non c'è un mondo invece che colonizza l'altro, in un senso o nell'altro, perché l'Oriente magari con Johnny Zhou e John Woo colonizzava l'Occidente in qualche modo, il suo immaginario. Mi sembra che sia una sorta di cinema della nuova frontiera che dobbiamo ascoltare, vedere, e Snow Piercer quindi è assolutamente da promuovere per quanto mi riguarda. Ricordiamo anche, tra l'altro, tratto da un graphic novel francese di qualche anno fa, i diritti erano già stati acquisiti da parecchi anni e poi ci è voluto tempo ovviamente perché il progetto si realizzasse. Questo è Snow Piercer, sicuramente il nostro consiglio numero uno della settimana per quanto riguarda il weekend al cinema. Noi cominciamo a giocare insieme invece con il nostro film misterioso, due frammenti di dialoghi di aiuto in questo film piuttosto rari, devo dire, da recuperare, per provare a indovinare di che film si tratta e vincerne il Blu-ray. Bellissima, non è vero? Che cosa? L'aurora. Stupenda. E allora, pochi secondi per capire di che film si tratta, dircelo, scrivercelo alla rosapurpurea@radio24.it con il vostro nome, cognome e indirizzo per provare a vincere una copia in Blu-ray di questo film per i primi due ascoltatori che lo avranno indovinato. Più tardi vi faremo ascoltare una seconda traccia. Questo vi sarà d'aiuto. Che cos'è? Bravo. E da dove l'hai trafugato? Per il vostro debutto londinese, un anticipo. Cosa hai detto? Partiremo domani stesso. Non ho mai dato il mio consenso. Di che cosa stai parlando? Voglio fare a pezzi il mondo, avete detto, ricordate? Londra è la nuova capitale del mondo. Dobbiamo conquistarla. E allora, quello che sentite suonare il violino è il vero violinista David Garrett, che è anche il protagonista del Violinista del Diavolo, il secondo film di cui vogliamo parlarvi in breve. Sostanzialmente è la storia di Niccolò Paganini vissuta un po' come se fosse stata una rockstar, in effetti dei suoi tempi un po' lo era, si forza molto questo concetto, forse sicuramente senza arrivare però alle invenzioni estetiche autoriali di un Milos Forman, di Amadeus, tanto per citare un grande esempio del passato, di un musicista riletto con gli occhi di un cineasta di oggi. Mi sembra, Boris, che nel tentativo di Bernard Rosa alla fine la cosa che funziona di più è il violinista. No, senza alcun dubbio, ma d'altronde il vero regista è proprio questo Garrett, che tra l'altro poi ha fatto uscire contestualmente la colonna sonora Garrett vs Paganini, che è la cosa più interessante. Questo Paganini è riarrangiato, lui grandissimo violinista, sempre in bolletta, risparmiava sempre sulle orchestrazioni, quando trova un grandissimo virtuoso che ha anche delle orchestrazioni straordinarie, ovviamente può divertire, soprattutto se rivisto in chiave pop, come d'altronde lui faceva ai suoi tempi. Chiaramente il pop ai suoi tempi era molto molto diverso. E per quanto riguarda il film, lo consiglierei forse ai melomani, ai coloro che sono pazzi, insomma, della Levi Style, per intenderci, perché ovviamente è un biopic anche molto ingenuo, molto superficiale in qualche modo, che vuole raccontare questa presunta compravendita tra Diavolo e Paganini riguardo alla sua anima, per avere quel talento straordinario, per avere il successo che meritava in vita e non solo dopo. Per il resto appunto è tutto il virtuosismo di questo grandissimo artista, di questo giovane incredibile, che Paganini lo ricorda un po' anche nello stile. Piccola curiosità: in nessuna parte del film verrà pronunciata la famosa frase "Paganini non ripete". Ecco, almeno quello ce lo siamo risparmiato. Io voglio solo dire che di Bernard Rose, guardando il percorso filmografico, salvo Candyman, Terrore dietro lo specchio, un film del 92 che mi fece una paura veramente pazzesca. La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, eccoci arrivati invece alla proposta italiana più importante di questo weekend. Si parla di Una donna per amica, film di Giovanni Veronesi con Fabio De Luigi, Letizia Castà e tanti altri attori, Valeria Solarino, Adriano Giannini, Valentina Lodovini, fra gli altri. Una commedia un po' anni Ottanta sulla storia di un avvocato trapiantato al sud, nella precisione a Lecce, la cui vita è sconvolta dall'arrivo di una donna veramente esplosiva. Forse non ci siamo capiti, io e lei siamo proprio amici, non c'è nulla di... Tu lo sai bene come stanno le cose. Ma quale amico? No, la donna, no! Di fronte al danza lombardo mi sento una mignotta. Io ho capito solo mignotta. E ci raccomando, ti metti che la porta Cesenasta. Io ho capito Cesenasta. Che è Cesenasta? E vuoi tu prendere qui presente Giovanni Orlando come tuo legittimo sposo? Sì, certo, lo voglio. E allora vi dichiaro marito e moglie. Una sorta di screwball comedy, potremmo dire, in qualche modo, all'italiana, con Fabio De Luigi e Letizia Castà, che sembrano avere una sintonia davvero ottima, Boris, vero? Assolutamente sì, un po' il matrimonio della mia migliore amica in versione italiana. I due fanno incredibilmente bene coppia insieme. Devo dire che De Luigi, con Donne bellissime, ha sempre dimostrato di saperci stare bene, che è un pregio molto, molto positivo. Qui la Castà dimostra di essere molto di più della Marianna di Francia, ha comunque personalità, ha comunque la capacità di vestire panni diversi da quelli che uno è abituato a mettergli addosso o a togliergli, come spesso gli accade nella pubblicità, anche se poi la forza vera di un film, che comunque è una commedia che cerca spesso anche vie facili per far ridere, come il personaggio di Virginia Raffaele, che è molto divertente, come alcune battute, alcune gag che magari abbiamo già visto in altre situazioni. A mio parere questo Fabio De Luigi, che io sono sempre più convinto essere sia nei film più leggeri sia nei film magari più complessi come Happy Family, una sorta di Peter Sellers italiano, purtroppo non compiuto, perché non ha trovato ancora il Blake Edwards o comunque tutti quei registi che quell'attore ha incontrato sulla sua strada. Il film è una commedia abbastanza divertente, in cui per 4-5 occasioni si ride veramente di gusto, uno di quei lungometraggi onesti che danno quello che promettono e che ti fanno uscire con un sorriso fuori dal cinema, e non è poco. Il sorriso di Boris Sollazzo è motivato anche dal fatto che è fuori dal cinema, ha intervistato Letizia Castà. Sentiamo. Senti, mi sembra che ti diverti molto a metterti in gioco, penso al ballo che hai fatto a Sanremo, ma anche al ballo che fai sul tavolo nel film, insomma, per te la fisicità è importante. Non è una questione di fisico, è una questione di energia. A me mi piace di prendere rischi e fare cose come hai fatto, punto. E per me essere un'attrice è questo, voglio solamente fare il mio lavoro, e allora quando c'è la possibilità di fare qualcosa di diverso mi butto e poi ripenso, ma è troppo tardi. Ma c'è sempre questo bisogno di avventura, io, avventura perché è la mia curiosità, e questo mestiere è bellissimo per questo, di si rimette in gioco ed avere la possibilità di fare vedere diverse faccia di te. Anche io sono molto timida, e allora c'è l'unica possibilità di essere qualcuno che io non sono in vita mia privata. Com'è stato il rapporto con Giovanni Veronesi? E lui è una persona molto intensa, credo che un uomo molto sensibile, che ha dovuto, credo, proteggersi tempo. Allora, sembra un orso, ma invece non è. E poi lui ha bisogno sempre della commedia, della leggerezza, per dire cose che lo toccano, perché c'è una pudola lì, che ho capito molto. E lui è stato, mi ha lasciato fare quello che voleva perché sono una straniera. Ma credo che sì, io stata una donna italiana, mi dava botte. Allora io ho approfittato della situazione. Letizia Castà al microfono di Boris Sollazzo. Il film è Una donna per amica con Fabio De Luigi nei nostri cinema. Andiamo a giocare ancora insieme con la seconda clip del game di oggi. Explorer qui Houston. Ti ascolto Houston. Abortire missione. Ripeto, abortire missione. Explorer, sono Kowalski. Confermo contatto visivo con i detriti. Sono di un satellite BSE. Ripeto, confermo. Dottoressa Stone richiede trasporto di rientro veloce. Dobbiamo andarcene via, via, via. La Rosa Purpurea chiocciola radio24.it, titolo del film e vostro indirizzo per provare a vincere una copia in Blu-ray di questo film per i primi due ascoltatori che indovineranno. Settimana prossima vi diremo di che film si tratta e chi ha vinto, per quanto concerne appunto il nostro game di oggi. Ecco Boris, per chiudere la nostra carrellata di oggi, abbiamo tenuto un film che ha un'uscita molto importante, ha avuto un battage poderoso, ma che nonostante la bellezza che veramente tramortisce di Lea Seydoux in questo film, dove viene fuori il lato angelico di questa attrice con Vincent Cassel, un grande come dire, blockbuster francese nello schermo, è forse davvero lo sconsiglio di questa settimana. Stiamo parlando di questa edizione della Bella e la Bestia di Christophe Gans, che non riesce sicuramente a fare innamorare di questo personaggio come per esempio fece il cartoon Disney. Pienamente d'accordo, francamente è strano, perché se su Gans sappiamo che non è un grandissimo regista, nel caso di Cassel e della Seydoux ci hanno dimostrato più volte, la Seydoux non ultima nella Vita di Adele, di essere abbastanza caldi, abbastanza forti, abbastanza strutturati per poter tenere dei personaggi che magari sì sono stereotipati, ma che hanno bisogno di una passione straordinaria per superare anche certi archetipi fisici. Però rimane un cartoon che non ha però neanche il gusto della fiaba infantile. Cartoon ovviamente lo dico in senso metaforico, perché il film assolutamente non è d'animazione, purtroppo direi, quindi davvero sì, è lo sconsiglio della settimana e temo anche della stagione. E allora, battezzata anche la Bella e la Bestia in questa nostra puntata, Boris, io ti do appuntamento fra 7 giorni, grazie di essere stato con noi. Arrivederci a tutti e buon cinema. E allora, adesso è il momento di ricordarvi del nostro, chiamiamolo cofanetto game, ma io l'ho chiamato il concorso per eleggere il più truffottiano dei nostri ascoltatori. Come sapete, ogni sabato il Sole 24 Ore per 11 settimane, questa è la seconda, manda in edicola un film, un capolavoro di François Truffaut. Alla fine questi 11 film saranno compresi dentro un grande cofanetto che noi regaliamo a chi si dimostrerà fra gli ascoltatori della Rosa Purpurea il più truffottiano dei nostri ascoltatori, quello che ne sa di più. Settimana scorsa abbiamo fatto la prima domanda, sulla base della quale, assegnando 5 punti al primo e un punto al quinto che ci avevano risposto in ordine in maniera esatta, la classifica è la seguente: prima Teresa Rizzoli, secondo Cesare Longo, terza Maria Pia Saini, quarto Ivan Ferrazzi, quinto Zia Babi. Ecco, ve li dico perché da oggi invece il nostro gioco passa sul nostro SMS 349-238-6666, 238-6666, 349 è il prefisso, il nostro SMS di Radio 24. Dovete rispondere a questa che è la seconda domanda per tastare la vostra truffottianità. Quale fu il film d'esordio di François Truffaut? Da questo momento 349-238-6666, mettete un vostro nickname, un vostro nome di riconoscimento. Ovviamente quelli che hanno partecipato per Facebook l'altra volta mettano lo stesso nome, in modo che noi si possa stilare la seconda classifica e settimana prossima chiudere il cerchio ed eleggere il vincitore di questo cofanetto. A questo punto però noi andiamo a risolvere il game della scorsa settimana. Ascoltiamo la clip. Hermès, mia moglie. It's molto Hermès. Lieto. Lei è mia figlia Olga. Scusi, non è No. E lei è Asbid, la nonna. Si trattava ovviamente di Sole a Catinelle, il film campione storico di incassi nel cinema italiano, interprete Checco Zalone. L'edizione in Blu-ray sarà spedita a Cinzia Colombo di Veddasca, provincia di Varese, e a Claudia Cattaneo di Fontenuova, provincia di Roma, le più veloci ad indovinare la settimana scorsa. E di questa edizione, di quello che è stato un film che a suo modo entra nella storia del cinema italiano, parliamo con gli amici di Film TV e in particolare con Giulio San Giorgio, che è in collegamento con noi. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, esce in DVD e Blu-ray il campione d'incasso del 2013, il film italiano che ha incassato di più nella storia del nostro cinema, che è l'incontro tra la crisi economica e il populismo solare, scorretto e demenziale di Checco Zalone. Uno dei film che è stato uno dei due casi italiani dell'anno scorso, e del secondo caso poi ne parleremo tra poco. Tra pochissimi contenuti speciali del disco, dietro quelle quinte del film, è da notare che per non farsi mancare niente nelle classifiche di vendita dei DVD e Blu-ray il film è al primo posto. Beh, assolutamente, non è una sorpresa, diciamo così. Facevi cenno giustamente all'altro grande film che, motivi assolutamente opposti, hanno messo all'attenzione del cinema italiano e internazionale di quest'anno. Stiamo parlando della Grande Bellezza, che invece è la nostra segnalazione TV di questa settimana, perché qualche ora dopo l'Oscar, e chissà come sarà andata a finire, noi intrecciamo le dita e lo sentirete qui seguendo Radio 24, la prima TV della Grande Bellezza di Paolo Sorrentino. C'è stata anche qualche polemica degli esercenti su questo tema, perché forse se le cose dovessero, sempre intrecciando le stesse dita, andare bene, magari si poteva anche ributtarlo fuori al cinema. Però intanto è programmato in prima serata su Canale 5 martedì 4 marzo. Sì, il film che concorre agli Oscar come miglior film straniero in prima visione TV ha soli 9 mesi dall'uscita in sala e il giorno dopo la consegna delle statuette. Un altro capitolo della guerra tra Sky e Mediaset, possiamo dire, un fatto che, come dicevi, non piace per nulla agli esercenti, visto che il film è ancora in programmazione in 14 sale in questo momento. E allora noi vi invitiamo a rivederlo in TV, perché è un film che, come tutti quelli di Sorrentino, cerca di esaltare la gioia del cinema. E questo, che è stato un film amato più all'estero che in Italia, è una ricerca del tempo perduto cafona, un triste sfrenato carnevale su Roma e il suo sottobosco, la sua presunta intelligenza e i suoi nuovi ma vecchissimi mostri. E allora ricordiamo ancora l'appuntamento, La Grande Bellezza, su Canale 5 martedì 4 marzo alle 21:10. Grazie Giulio, a risentirci. Ciao Franco, alla prossima. E allora siamo arrivati alla fine della nostra puntata, non ci resta il tempo che salutarvi, darvi appuntamento a sabato prossimo alle 16 qui su Radio 24 con La Rosa Purpurea, tutto il cinema che c'è.